Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Covid-19, i nuovi casi tornano a salire. In linea con noi il professor Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Sì, i casi continuano a presentarsi e a salire. Questo sta a indicare che il virus sta continuando a girare tra di noi, è sempre pronto a dare dei nuovi focolai e quindi dobbiamo imparare in qualche modo a convivere con questo virus. Professor Andreoni, la malattia si manifesta in forme meno gravi. Questo significa che il virus ha perso potenza? Questo vuol dire che stiamo vedendo una epidemia in modo diverso. Il virus circola maggiormente all'aperto, non sta entrando in quelle case di cura dove sono i pazienti fragili all'interno dell'ospedale, e le persone che stanno all'aperto sono persone più sane, quindi si confrontano meglio con il virus, quindi non è il virus che perde potenza, è che sta circolando tra le persone che sono meno fragili. Quando è entrato, come è successo a Roma, in una casa di cura dove ci sono pazienti anziani e fragili, è nuovamente dimostrato che è un virus pericoloso. Dobbiamo mantenere alta la guardia. Professor Andreoni, che cosa ci raccontano i nuovi focolai e che cosa possiamo fare in questo momento? I nuovi focolai ci dicono che innanzitutto dobbiamo intervenire prontamente per cercare di evitare l'ulteriore contagio di altre persone. Per fare questo dobbiamo fare i tamponi, che ci permettono di riconoscere chi sono i malati e chi a cui queste persone stanno diffondendo la malattia. Quello che dobbiamo fare noi tutti come cittadini è fare attenzione, mantenere il distanziamento sociale, usare la mascherina quando è indicato, perché ormai abbiamo capito, noi siamo in grado di bloccare il virus, ma questo dipende da noi. Grazie professor Andreoni per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Anche a lei e a chi ci ascolta. Grazie per oggi è tutto, come sempre, come ogni giorno vi aspetto sulla pagina Facebook. Oggi incontriamo Giulia Calefato, personal trainer e autrice del libro Fit is Beauty, con cui ci rimettiamo in forma. Buona giornata da Nicoletta.